ed è anche consigliere del presidente Pacheco. Durante il rapimento, un automobilista cerca di inseguire la macchina in cui si trova Pereira Reverbel, ma una camionetta che fa parte dell'organizzazione gli attraversa la strada e gli inseguitori devono rinunciare. In un comunicato i Tupamaros scrissero: «Occorre organizzare la difesa degli interessi del popolo e continuare a combattere, preparandosi attivamente a rispondere con la lotta rivoluzionaria alla violenza reazionaria. Per questo motivo e per significare che nulla rimarrà impunito e che la giustizia popolare saprà esercitare attraverso la via e coi mezzi che le sono propri, abbiamo posto in stato di arresto Pereira Reverbel, degno rappresentante di questo regime, difensore dei contrabbandieri della provincia di Artigas, assassino di una persona disarmata e rimasto impunito per questo delitto, carnefice degli operai dell'UTE e uno degli ideologi del regime attuale». La scelta di Pereira Reverbel era particolarmente opportuna. Reverbel aveva abbattuto con una rivoltellata un venditore di giornali dopo avergli intimato di non diffondere più un giornale che lo accusava di omosessualità. Dopo un breve soggiorno in carcere, le sue amicizie politiche gli avevano permesso di tornare in libertà. Fu poi nominato direttore dell'UTE dal presidente Pacheco, di cui è molto amico. Il 9 agosto, col pretesto di cercare Pereira Reverbel, la polizia penetra, fatto senza precedenti, nei locali dell'edificio centrale dell'università e in quelli della facoltà di architettura, agronomia, belle arti e medicina. Uno studente viene gravemente ferito. Vengono effettuate perquisizioni in tutta la città e sulle vie di accesso e di uscita da Montevideo. Si formano lunghe file per i controlli dei documenti e le perquisizioni delle auto. L'agente di Montevideo commenta favorevolmente l'azione dei Tupamaros. Cortei di studenti percorrono diversi quartieri, inneggiando all'MLN. Dovunque appaiono scritte a favore dei Tupamaros. All'UTE il sequestro è stato festeggiato con un brindisi generale. Poi Pereira Reverbel verrà rilasciato, ma cambierà casa e dichiarerà che continuare ad abitare lì gli era insopportabile, gli dava la nausea. Ed ora ascoltiamoci una canzone che parla dell'Uruguay in quel periodo, Tres Locuras, di Silvia Pérez Cruz. Los que vengan, limpiemos los platos. Sobrevivan, por favor. 12 años es todo, confíen para gol. Sobrevivan, por favor. 12 años es todo, confíen para gol. Ratón, tiza y jabón, de pared a pared, sin luz. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Añoro el calabozo. Nunca, nunca había sido tan yo. Tortura y tres locuras, negra de Pandoro, ya lo me tropieza sin parar. Plumita, plumita. Il 14 agosto muore Libera Arce, uno studente di 19 anni gravemente ferito da una pallottola 2 giorni prima durante una manifestazione, mentre voltava le spalle a un poliziotto che in seguito pretenderà di essersi trovato in stato di legittima difesa e verrà poco dopo rimesso in libertà. Il 15 agosto parecchie centinaia di migliaia di persone si riuniscono intorno all'università e una folla sterminata accompagna il feretro di Libera Arce fino al cimitero di Bussero. Il governo fa presidiare il palazzo dell'Assemblea da uno schieramento di truppe. Il panico si diffonderà tra le file dei poliziotti alcuni giorni dopo, quando gli studenti usciranno dall'università e marceranno sulla polizia scandendo a bassa voce «Tupas, Tupas, Tupas». Poi il movimento decise di evitare lo scontro diretto con la polizia e di sostituirlo con manifestazioni lampo destinate a informare la popolazione. La circolazione viene bloccata e vengono distribuiti dei volantini. A volte si attaccano banche o sedi straniere per mezzo di bombe Molotov. Alcune azioni di questo tipo sembrano coordinate a certe iniziative dei Tupamaros, i quali, del resto, avevano avuto modo di valutare i limiti dello scontro con la polizia nella fase attraversata allora dalla lotta. In un loro documento i Tupamaros affermano: «Il movimento studentesco è una punta offensiva di enorme importanza, ma rileviamo una certa inefficacia in questo movimento. La radicalizzazione dei mezzi di lotta di fronte alla brutalità della repressione poliziesca non è sempre chiaramente compresa dalla popolazione. Tutto questo ci fa capire, ancora una volta, che a un certo stadio di sviluppo della repressione il movimento sindacale come strumento di lotta è superato e deve lasciare il posto ad altre forme di combattimento». Venerdì 20 settembre altri due studenti, Ugo de los Santos e Susanna Pintos, vengono uccisi in circostanze simili a quelle in cui è stato ucciso Liberarse. Il 10 ottobre, durante una perquisizione presso un fotografo che riuscì a fuggire, si scopre un laboratorio destinato alla preparazione di carte d'identità. Si trovano dei documenti in bianco provenienti dalla questura. Evidentemente i Tupamaros potevano contare su complicità anche in questura. Il 10 dicembre 1968 vengono arrestati 8 Tupamaros. Il 1 gennaio 1969, approfittando delle feste di Capodanno, i Tupamaros penetrano nel tribunale incaricato di esaminare e punire le loro attività e recuperano 41 armi che erano state confiscate in precedenza al movimento. Il 3 gennaio 1969 la polizia scopre 3 mitra, una retrotrasmittente a onde corte e 6 kg di plastico in un nascondiglio dell'MLN. Ed ora un po' di musica. Ascoltiamo Senza paura del gruppo I Tupamaros, storica band di folk rock di Carpi, che ha collaborato con i Modena City Ramblers, gli Yo-Yo Mundi, la Gang e gli Intilimani. Solo il meglio di quello che ho. Guardami senza paura. Dice che il tempo passa per tutti, ma mica tutti alla stessa maniera. Che c'è un tempo che profuma di rosa e un altro che odora di annuncio imminente. E allora guardami e ascoltami senza paura. Guardami e ricorda solo il meglio di quello che ho. Guardami senza paura. Saranno note, saranno canzoni, sarà rumore, sarà silenzio che viene alla sera per un solo momento. Saranno note, saranno canzoni, sarà rumore, sarà silenzio che viene alla sera e non porta spavento. E allora guardami e ascoltami senza paura. Saranno note, saranno canzoni, sarà rumore, sarà silenzio che viene alla sera e non porta spavento. Saranno note, saranno canzoni, sarà rumore, sarà silenzio che viene alla sera per un solo momento. E allora guardami, guardami, guardami e ascoltami. Ti dico guardami, guardami, guardami e ascoltami. Il 14 febbraio 1969 i Tupamaros perquisirono la sede della società Monti, prelevando 6 milioni di pesos, circa 24 mila dollari, e annunciano che stanno studiando i libri contabili che hanno sequestrato e che ora si trovano in loro possesso. La società viene citata in tribunale per non aver denunciato il furto. I Tupamaros fanno pervenire alla stampa le fotocopie dei libri contabili. Il 28 febbraio i Tupamaros rendono pubbliche le prime conclusioni della loro indagine, fornendo le prove di speculazioni sulle divise estere, di operazioni di contrabbando, di frodi fiscali, di prestiti a usura. Le malversazioni ammontano complessivamente a 15.214.000 dollari. Numerose personalità facenti parte del governo o vicine ad esso sono compromesse nello scandalo, fra cui il ministro dell'agricoltura e dell'allevamento, proprietario di una banca associata alla Monti e che ha realizzato operazioni illecite grazie alla sua collaborazione e che è costretto a dimettersi. La commissione d'inchiesta presenterà alla fine di luglio del 1970 un rapporto che confermerà la maggior parte delle accuse dei Tupamaros. La Monti, in rapporto con 50 banche uruguayane o straniere, risulterà responsabile di frodi per decine di milioni di dollari. In questa vicenda è tutto il sistema politico ed economico uruguayano ad essere chiamato in causa. Il 18 febbraio 1969 i Tupamaros, travestiti da poliziotti, rapinano 56 milioni di pesos, circa 185 mila dollari, al Casino San Rafael a Punta del Este. Tutta l'operazione è molto rapida, dura appena 10 minuti. Da poco l'MLN aveva operato la divisione in colonne, ciascuna delle quali costituisce un MLN in miniatura, con le sue basi, i suoi laboratori, le officine e i servizi. Questo rende necessario un consistente reperimento di denaro. Il 20 febbraio 1969 si viene a sapere che durante l'operazione alla Monti un'impiegata, che è poi passata nella clandestinità, ha fatto entrare i Tupamaros nella sede della società. Il 15 maggio 1969, durante la finale della Coppa Americana di calcio, invece della voce del radiocronista di Radio Sarandì, la più ascoltata per le partite di calcio e che raggiunge tutto l'interno dell'Uruguay, una voce annuncia la lettura di un messaggio del Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros, che inizierà alla fine del primo tempo, per non interferire sulla radiocronaca. Il messaggio aveva una durata di 5 minuti e sarà ripetuto 6 volte. All'operazione partecipano 10 guerriglieri, tra cui 2 donne. Il 17 giugno 1969 il potere esecutivo vieta per decreto l'uscita del giornale Extra per la pubblicazione di notizie che mirano a turbare l'ordine pubblico. Lo stesso gruppo redazionale cercò di far uscire un altro giornale col titolo di Democrazia il 7 luglio 1969, ma anche questo fu vietato dopo l'uscita di un solo numero che aveva pubblicato una fotografia dei sinistri edifici dell'Isola dei Fiori, dove erano stati appena internati 12 militanti sindacali. Infine, il 13 aprile 1970 fu vietato De Frente, giornale promosso da un comitato di cui faceva parte una vasta gamma di esponenti dell'opposizione, fra cui anche alcune personalità religiose, cattoliche e protestanti. Il giornale fu vietato in seguito a una vigorosa campagna contro la tortura della polizia e alla denuncia di alcune attività del futuro ministro degli esteri Peirano Fassio. Nel giugno 1969 Rockefeller arriva per una visita in Uruguay. Inviato dal presidente Nixon per raccogliere informazioni sulla situazione politica ed economica, l'MLN decide di accoglierlo come si deve, decidendo di attaccare la filiale della General Motors, che tra l'altro fornisce le auto della polizia. All'operazione partecipano 9 compagni. La filiale, con tutti gli automezzi all'interno, viene incendiata e non rimarrà altro che cenere e ferraglia contorta. Il 9 settembre 1969 viene rapito Pellegrini Gianpietro, membro del comitato direttivo del giornale di estrema destra La Magnana e di quello dell'Associazione delle Banche dell'Uruguay. È anche un ex capitano delle Brigate Nere della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, di cui suo padre era tesoriere. A Montevideo i Pellegrini Gianpietro acquistano il Banco del Lavoro Italo-Americano. La polizia vieta alla stampa di diffondere la notizia. I giornali che ne parlano, come De Frente, Action ed altri, vengono sottoposti a censura. Durante il sequestro, che durerà 73 giorni, Montevideo viene ricoperta da manifesti che riproducono la contabilità segreta della banca. A ogni angolo, capannelli di passanti si fermano a leggere. I Tupamaros fanno sapere che pongono come condizione alla liberazione una rapida soluzione dell'avvertenza dei bancari e la riassunzione dei 182 impiegati, oltre a quella di 2000 dei loro compagni che sono stati licenziati in seguito, oltre al versamento di una forte somma alla clinica del sindacato degli operai della carne. L'8 ottobre 1969 i Tupamaros attuano l'operazione Pando, che costituisce una svolta nella storia del movimento. Era la prima volta che l'MLN lanciava un'operazione in cui erano impegnati circa 60 uomini. Pando è una cittadina ai 30.000 abitanti che si trova a 30 km da Montevideo. L'operazione comprendeva l'occupazione di 6 obiettivi: il commissariato, la caserma dei pompieri, la centrale telefonica e 3 banche, Repubblica, Pan de Azúcar e Pando. L'operazione, nonostante le grandi difficoltà di un'azione di queste dimensioni, procede bene, anche se uno dei guerriglieri rimane a Pando per una serie di sfortunate circostanze e viene arrestato. I problemi si presentano però durante il rientro a Montevideo. Un'autopattuglia taglia la strada a Jorge Salerno e Arapey Cabrera, che avevano partecipato all'occupazione del commissariato. Tentano di scampare rifugiandosi in un bosco. I poliziotti sparano e feriscono Cabrera, che esce dal bosco, getta la sua arma a terra e alza le braccia, ma viene crivellato di colpi. A Salerno, dopo avergli sparato, lo lasciarono dissanguare. Lo sappiamo perché un giornalista chiese che fosse chiamato un'ambulanza, ma l'ufficiale presente rifiutò la richiesta e prese a calci Salerno ferito, che morì. Anche un altro compagno fu ucciso. A molti altri viene sparato, nonostante si siano arresi. Alla fine, 30 Tupamaros furono imprigionati, ammanettati, stesi a terra e colpiti ripetutamente con pugni, pedate, colpi di calci di fucile su qualunque parte del corpo. Nei pestaggi furono particolarmente attivi gli agenti della Polizia Metropolitana. Quindi ci ascoltiamo ora una canzone scritta da Jorge Salerno, ucciso nell'operazione Pando, e cantata da Daniel Viglietti. La senda está trazada. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la United Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Il 1 novembre avviene uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra i Tupamaros e una pattuglia della polizia. L'operaio dell'Ute, Arturo Cardama, che era passato ai Tupamaros, rimane ucciso. Il 12 novembre i Tupamaros si impadroniscono di 15 milioni di pesos con una rapina. Il 15 novembre l'agente Carlos Rubén Zambrano, che sarebbe stato responsabile della morte di Salerno a Pando, viene ucciso mentre viaggia in autobus dai Tupamaros. Il 21 novembre viene liberato il banchiere Gaetano Pellegrini Giampietro. Il 27 novembre il poliziotto Antonio Maria Fernandez viene ucciso nel corso di uno scontro a fuoco con i Tupamaros. A dicembre vengono arrestati 4 seminaristi accusati di spionaggio a favore dei Tupamaros. L'8 marzo 1970, durante la Giornata Internazionale della Donna, l'MLN realizzò l'operazione Paloma. 13 donne Tupamara vengono fatte evadere mentre assistevano alla messa nella cappella della prigione femminile di Montevideo. All'operazione partecipano 13 Tupamaros, 11 uomini e 2 donne. La ricerca delle fuggitive non ha nessun esito. Si ricercano capri espiatori per la evidente incapacità delle forze repressive. García Capurro, ministro della cultura, fascista, amico intimo e ammiratore del dittatore paraguayano Stroessner, nemico acerrimo degli studenti che protestano, è costretto a dare le dimissioni. Viene dimissionato anche il direttore degli istituti penali. Infine si dimette anche il ministro dell'interno, che ha scatenato la repressione contro operai e studenti. Il 6 aprile i Tupamaros realizzano un furto di 75 milioni di pesos in sterline e di 500.000 pesos in dollari, asportandoli da una cassaforte che appartiene alla ditta Mylos. La cassaforte conteneva anche dei taccuini che, pubblicati dai Tupamaros, avrebbero permesso alla Commissione per la repressione dei reati economici di citare in giudizio la ditta per possesso illegale di valuta. Il giornale De Frente organizzò una settimana contro la tortura che si concluse con un'assemblea il 13 aprile 1970 nei locali dell'università. A questa grande manifestazione parteciparono il rettore dell'università e un gran numero di professori, giuristi, religiosi e medici. Questo giornale fu vietato pochi giorni dopo, ma la storia delle torture in Uruguay fu comunque pubblicata in un libro dal titolo Uruguay, torture 1970. Sempre il 13 aprile viene giustiziato dai Tupamaros il commissario Moran Charquero. I Tupamaros avevano condannato a morte Moran Charquero in seguito alle torture a cui era stato sottoposto il Tupamaro Rodebel Cabrera. Dopo il comunicato dei Tupamaros, il commissario si limitò a cambiare l'itinerario che seguiva abitualmente per recarsi in questura. Il 13 aprile due tassi e una camionetta circondano la vettura del poliziotto e i Tupamaros aprirono il fuoco. La condanna viene eseguita da 3 compagni più altri 3 del gruppo di appoggio. Il commissario era unanimemente indicato come uno dei responsabili delle torture inflitte nei locali della questura, ma non si specializza soltanto in torture, è accusato anche di appropriazione indebita. Il suo fascicolo che raccoglie i suoi crimini, secondo dati della polizia, è alto 1 metro. 8 mesi dopo, in un'inchiesta realizzata dall'Istituto di Economia dell'Università della Repubblica, una netta maggioranza degli interrogati esprime parere favorevole in merito a questa esecuzione. Questa esecuzione ottenne il risultato dell'abbandono dell'uso sistematico della tortura da parte delle forze di polizia, anche se si ebbero ancora alcuni casi isolati. Sul giornale Marcia del 31 luglio 1970 Maria Esther Giglio denunciò le torture subite da 2 Tupamaros che erano stati arrestati dopo essersi arresi. Fra il 30 aprile e il 18 maggio vengono fatti 10 attentati contro banche, posti di polizia e imprese americane. Il 29 maggio il comando Indalecio Oliveira de Rosa dei Tupamaros occupa il centro di addestramento della Marina. L'operazione viene pianificata e fu resa possibile in base alle informazioni fornite dall'interno da Fernando Garín, che poi si unì ai Tupamaros. Quando i guerriglieri abbandonarono la caserma, lasciò un proclama in cui scrisse: «Ai miei compagni e al popolo. Gli ultimi avvenimenti hanno mostrato ai soldati che desiderano veramente difendere la loro patria quale sia il loro posto. Oggi dobbiamo scegliere fra i nuovi tiranni, questi banchieri che hanno deciso di difendere con le armi i loro affari privati e l'Uruguay libero e giusto di domani. All'operazione partecipano 20 Tupamaros. Durante l'azione vengono fatti prigionieri 63 uomini. Prima di rinchiuderli nelle celle, Garín li arringò, ricordando loro che in quello stesso posto furono maltrattati, vessati, costretti a stare in piedi per ore i lavoratori della UTE, e dice che alcuni degli ufficiali e dei soldati che hanno preso parte a queste torture erano lì presenti e, guardandoli in faccia, disse il nome di ognuno. Furono dipinte delle scritte sui muri e issata la bandiera Tupamara. Alle 4:15, e cioè 2:30 dopo l'inizio dell'operazione, il centro di addestramento della Marina fu abbandonato. Furono sequestrati 190 fucili Springfield, 120 fucili d'assalto Garand M1, 50 pistole, 180 revolver nuovi fiammanti, 2 mitragliatrici, 6 fucili R15, 2 mitra Racing, 90 granate, 130 granate fumogene e lacrimogene, 70.000 proiettili, apparecchi radio fissi e portatili, maschere antigas e attrezzi da palombaro. Il 31 maggio López Mercado, militante tupamaro, giace in mezzo alla strada dopo aver ricevuto una pallottola nella gamba e un'altra nel petto. Viene legato e tempestato di colpi. Poi un poliziotto cerca di dargli il colpo di grazia. Il proiettile entra nella bocca ed esce attraverso il collo nei pressi della carotide. Vedendo che vive a stento, un poliziotto fa notare che non vale la pena di sprecare un altro proiettile per un moribondo. Altri poliziotti si avvicinano a Félix Bentín, un altro tupamaro che è stato ferito anche lui alla spalla e alla gamba, e gli sfondano l'occhio sinistro con il calcio del fucile. Il 17 giugno i Tupamaros inviano una lettera agli ufficiali di alcune unità di polizia che tennero, come scrivono, un contegno decoroso e che accusarono i loro capi corrotti di condurre la repressione con accanimento. Questa lettera fu poi inviata ai giornali. In essa possiamo leggere: «Voi, signori poliziotti, siete stati gli strumenti di una delle repressioni più ripugnanti e sanguinose della storia americana. Noi rivoluzionari uruguaiani, che non abbiamo mai sparato su un uomo disarmato, che non abbiamo mai torturato un prigioniero indifeso, che lottiamo perché i vostri figli non siano gli uccisori stipendiati da alcuni banchieri multimilionari per 26.000 pesos al mese e 3.000 pesos di indennità per sparare sul popolo. Vi invitiamo a riprendere la strada dell'onore e ad unirvi alla causa della libertà e della giustizia. Fino a quel momento nessuno dei vostri delitti rimarrà impunito». Poi, nel luglio 1970, l'MLN Tupamaros scrive anche a numerosi membri di ogni grado delle forze armate. Ne leggiamo uno stralcio. «Il nostro movimento lavora senza esitazione, con energia e fiducia, per la liberazione nazionale, che significherà lavoro, giustizia e dignità. Siamo impegnati in questa lotta e non ci scoraggeremo mai, e in questa lotta può esserci un posto per le forze armate del nostro paese, che sono anch'esse popolo e che soffrono anch'esse dell'onta di una patria umiliata da uomini senza onore, per cui la Repubblica appartiene solo a loro e ai loro misfatti». Il 28 luglio 1970 i Tupamaros sequestrano il giudice istruttore Pereira Mannelli, che aveva istruito il processo e dettato la sentenza relativa a un centinaio di membri dell'organizzazione. Nel comunicato dei Tupamaros possiamo leggere le accuse rivolte al giudice. 1. Tre dei quattro Tupamaros che erano stati condannati per l'uccisione di un poliziotto, Paglias Cardoso, a Cuciglia Alta, erano già stati arrestati quando si verificò l'incidente. 2. Qualche tempo prima era stato rilasciato un poliziotto che aveva ucciso un pacifico cittadino mentre stava verificando i suoi documenti. Il giudice Pereira Mannelli accusava i familiari di mancata denuncia di omicidio. 3. Si rimproverava inoltre al giudice di avere archiviato l'affare della Monti. 4. Di non avere condannato severamente i poliziotti che erano stati accusati di torture e di avere permesso che, a dispetto della legge, degli imputati rimanessero fino a 7 giorni in custodia preventiva. Si conclude qui anche questa seconda puntata sui Tupamaros. Alla prossima.